Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Benvenuti a tutti a I Love Italy su Radio Miami International, i vostri 15 minuti che parlano italiano in compagnia di Andy Mangiarotti. Cari amici, come state? Mi auguro tutto bene. Eccoci tornati in onda su Radio Miami International, sulla WRMI. Spero sia una gradevole giornata o serata, secondo da dove ci ascoltate da tutto il mondo. In apertura vi ricordo le frequenze, se volete ascoltarci, e gli orari di messa in onda. Siamo in onda ogni giovedì dalle 20.30 alle 20.45 UTC, che sarebbero le 21.30-21.45 ora italiana, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Poi siamo in onda anche mercoledì dalle 01.15 sino alle 01.30 UTC, che sarebbero le 2.15, le 2.30 in Italia, frequenze dei 7.730 kHz e 5.850 kHz. Poi ancora siamo in onda il sabato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, che sarebbero le 21.45-22 ora italiana, sulla frequenza dei 7.730 kHz e anche sulla frequenza mitica dei 15.770 kHz. E poi sempre il sabato siamo in onda dalle 21 sino alle 21.15 UTC, che sarebbero le 22.15 ore italiana, sulla frequenza sempre dei 15.770 kHz. Ma che cos'è I Love Italy? I Love Italy è un rotocalco mensile in lingua italiana, trasmesso appunto su WRMI, Radio Miami International. Dura 15 minuti ed è un talk show dove analizziamo fatti di costume, società, musica, cronaca, sia attuali che del passato, tutto rigorosamente in lingua italiana. Il nostro salotto radiofonico parla anche di cinema, teatro e musica ed è ospitato grazie al caro Jeff White, editore appunto di WRMI, storica radio network che trasmette da Okeechobee in Florida con le sue poderose antenne un po' in tutto il mondo. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Iniziamo salutando un caro ascoltatore che ci ha inviato una mail. Vediamo un po' di chi si tratta. Come stai? Saluti dal Brasile. Il mio nome è Reginaldo, dalla città di Mansa, stato di Rio de Janeiro, Brasile. Ho ascoltato il tuo programma, poi mi ha spiegato appunto che cosa ha ascoltato, programma in lingua italiana. Il programma si chiama I Love Italy e include musica con identificazione in lingua inglese del programma. Un bel programma, bello l'Italia. E il nostro Reginaldo ci ha ascoltato in data 2 novembre 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via WRMI Radio Miami con il seguente orario: 20:26 UTC sino alle ore 20:55 UTC sulla mitica frequenza dei 15.770 kHz, che clamorosamente è ascoltata anche in Brasile oltre che in Europa e negli Stati Uniti. Benissimo, lui ci segnala un simpo 2-3-3-2-2, ricevitore R500 Kenwood LP400 con antenna loop. Bene, piacere, vorrei informazioni su I Love Italy, se avete delle cartoline o adesivi. Andrea, ti auguro un buon Natale e un felice 2025. I miei sinceri auguri, Reginaldo da Barra Mansa, Brasile. Grazie ancora a Reginaldo da Mansa, nel vicino Rio de Janeiro. Buon anno e buon Natale anche a te, gentile Reginaldo, anche se comunque le festività sono passate, però ti salutiamo e ti auguriamo uno splendido 2025. Ora è arrivato il momento di parlare di musica. Abbiamo un artista italiano emergente, tra le altre cose un mio amico virtuale, nel senso che ci siamo scambiati opinioni più o meno musicali attraverso il web. Sto parlando di Massimo Marocchi, conosciuto come Miedo, che è un cantautore romano che ha recentemente pubblicato il suo singolo L'amore è un volo, è un brano autoprodotto, lui è autodidatta, musicista, paroliere e si è autoprodotto con questo bellissimo singolo. Questo testo è molto bello e soprattutto questo brano esplora il tema dell'amore come sentimento universale e profondo che appartiene a ciascuno di noi. Miedo, Massimo Marocchi, che ha collaborato con artisti come Natalia Estrada e il gruppo dei Farias, ha una visione unica della musica. Si ispira molto ad artisti come Lucio Battisti o la grande Amy Winehouse. La sua musica è una ricerca del bello assoluto, dell'esaltazione dei sentimenti. L'amore è un volo, ha ottenuto ottimi risultati in termini di streaming e visualizzazioni, ricevendo grandi riscontri da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Tra le altre cose, c'è anche un commento molto bello che il nostro amico Massimo al Secolo Miedo ha ricevuto, un commento del grande Don Bacchi, un artista italiano storico che ha, diciamo così, lanciato molti talenti in Italia, ha composto dei brani memorabili e ha anche arrangiato appunto delle canzoni strepitose. Il grande Don Bacchi di questo brano scriveva: qualche atmosfera vendittiana, ma nel complesso un buon brano e cantato bene. Secondo me la giusta interprete potrebbe essere anche quest'ultima Mina, quindi niente di meno che Mina. Mi pare il suo stile. Provaci magari a contattarla. Questo è un bellissimo commento che Don Bacchi appunto ha espresso sul nuovo singolo del nostro caro amico Massimo Marocchi, Al Secolo Miedo. Massimo Marocchi, known as Miedo, is a singer-songwriter from Rome who recently released his latest single, L'amor è un volo, Love is a Flight. This song explores the theme of love as a universal and profound feeling that belongs to each of us. Miedo, who has collaborated with artists like Natalia Estrada and the group Farias, has a unique vision of music, inspired by artists such as Lucio Battisti and Amy Winehouse. His music is a quest for absolute beauty and the exaltation of feelings. L'amore è un volo has achieved excellent results in terms of streaming and views, receiving great feedback from the public and industry professionals. Let's listen to Massimo Marocchi, known as Miedo, with the song Love is a Flight. Dentro al chiosco quando insieme mangiavamo il pane, tutto il resto era l'altra gente ed era confusione. Ho cercato mille volte di capirti ma non mi hai detto niente, e una finestra sopra il mondo ci disperde in mezzo a tanta gente. E ancora adesso che ti cerco tra le cose che non ami più, saranno cose, ma lì ci sei tu e non ci crederai, io le amo, sai. quando insieme ci bastava il pane. Tutto il resto era l'altra gente che ci faceva male. Ho cercato mille volte di capirti e non mi hai detto niente. È una storia come le altre, si disperde dentro la tua mente. E ancora adesso che ti cerco tra le cose che non ami più, saranno cose ma lì ci sei tu e non ci crederai. Io le amo, sai. Vedi, l'amore è un volo che lascia dentro il suo abbandono. Guarda, Massimo Marocchi al Secolo Miedo, che abbiamo sentito il suo singolo bellissimo L'amore è un volo. Ricordate, Miedo lo trovate su Facebook, basta cercare massimo.marocchi9 oppure su YouTube Miedo Art in the World. Noi siamo arrivati in fondo per I Love Italy di questa bella giornata. Grazie ancora a Jeff White per lo spazio. A tutti voi un salutone da Andrea. Ciao! Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Yeah. Yeah.